24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Eccoci qua, buongiorno, siamo pronti per una nuova settimana di 24 mattino, cari ascoltatori, cari italiani. Siete lì? Siete svegli come la nostra Miriam Lucchetti in redazione, come il nostro alpino Peter Bescapè che è sveglio da, non lo so, Peter Bescapè, da quant'è che è sveglio? Dalle due, fa sì. Ah, dal due ore, ho capito, dalle due si sveglia solo Alberto Forchielli, solo Forchielli è sveglio dalle due. Forchielli, a che ora si è svegliato oggi? Forchielli. No, sono a Pechino, non c'è bisogno di svegliarmi presto. Ho capito, infatti. È 1:30 qua. Sta digerendo, appena pranzato, sì, tutto facile per Forchielli a Pechino, vabbè. Vabbè, sentiamo fino a Pechino il mantra del consiglione, il consiglione. But please relax. Il consiglio del presidente del consiglio. Please relax. È arrivato fino a Pechino, Forchielli? Ma sì, sono confusi qua a Pechino. Voglio capire. No, adesso mi faccia capire qual è la situazione. Sì, perché adesso a Pechino uno va nei bar di Pechino, nei ristoranti di Pechino, e tutti parlano di monti, no? Ma dai, su. No, sì, io non vado nei bar, vado al partito, vado al Ministero degli Affari Esteri, quindi voglio sapere. Fanno domande. Non capiscono, sì, tutto questo appoggio del Vaticano non lo capiscono. Ma lì in Cina col Vaticano hanno dei rapporti un po' strani. Comunque mi faccia aprire il bar qui, il nostro bar condicio, eh? Apriamolo subito perché sennò non possiamo offrire il caffè. Il caffè volentieri a tutti quanti. Come sempre offre Nicole Minetti nella nostra segreteria telefonica. Poi sentiamo, c'è qualcuno che si arrabbia per questa cosa, no? Si capisce perché non ci possiamo far offrire il caffè a tutti da Nicole Minetti. Tanto metteremo tutto come rimborsi regionali. Allora Forchielli, fino a Pechino le voglio far arrivare una voce. Non vorrei neanche, vorrei anche farle quasi un quiz senza, no, ma il quiz lo faccio dopo. Non vorrei dirle però chi è questa voce. Allora però lo diciamo chi è. Oggi è l'anniversario della tragedia del Costa Concordia al Giglio. 30 morti recuperati e 2 dispersi. Ieri chi poteva parlare, Forchielli? Chi poteva parlare da Giletti all'arena di domenica su Rai 1? Chi poteva parlare secondo lei? Quello che lei strozzerebbe con le mani. Schettino, certo. Quello che strozza, com'è che l'altra volta mi ha detto lo strozzerei con le mie mani? Sì, lo strangolo. Sentiamo Schettino ieri, il comandante. Quello non era un inchino, quello era un passaggio vicino a un'isola. L'inchino si fa a bassa velocità e si fa per tutto il golfo. Quello era un semplice passaggio pianificato a mezzo miglio dalla costa. Il comandante è lui responsabile di tracciare le rotte, quindi non abbiamo mai chiesto autorizzazioni a nessuno. La pratica dell'inchino, cosiddetto impropriamente inchino, è stata sempre un po' lasciata al volere dei comandanti, quindi io a mia memoria storica, per quanti i passaggi ravvicinati o inchini io abbia mai fatto nella mia vita, non ricordo mai di aver chiesto autorizzazione. L'avevate già fatto? Sì. Anche in quel contesto? Sì, era stato già fatto? Il 14 agosto è stato fatto l'inchino. Sempre, cioè voglio dire, non sempre, quando ci sono le condizioni, anche quando il comandante sta di buon umore, quando si preferisce non annoiare con la navigazione. Avete sentito? Forchielli ha sentito? Quando l'inchino, questa pratica di passare, si fa quando il comandante sta di buon umore, quando non si vuole annoiare con la navigazione, quando, poi dopo succedono queste piccole cose, no? questi dettagli. Sì, Sì, 30 morti, bravo da ridere. 32. Piccoli dettagli. Sì, no, cioè, voglio dire, c'è il paese, non c'è il senso della vergogna in questo paese. Si è perso proprio la dignità, il senso di doversi nascondere, capito? Il senso di chiedere scusa, capito? Tutto è perdonato, perdonabile, capito? Tutto è... È così. Voglio dire, ce la stiamo a prendere con questi politici, no? Capito? In realtà i politici italiani sono l'immagine riflessa di un popolo. Di un popolo che negli ultimi 30 anni si è rincretinito. Oh, eccolo qua. Com'è? Me lo dica bene adesso il siamo feccia, questo. Sì, è un popolo che si è rincretinito, capito? Si ha non capito? È un popolo... Lo vede anche lei, capito? Sì, è un popolo che usa i treni per mandare in giro l'immondizia, capito? Non le devo dire di più. No, ma sono io, infatti non la fermo. È un popolo che vota Berlusconi, capito? Aia, no, mannaggia, no, Berlusconi. No, Berlusconi, adesso, no, non mi dica adesso, poi dopo devo chiamare subito Berlusconi e non so se mi risponde a quest'ora, anche perché oggi è già impegnato su due trasmissioni televisive, oggi sarà, credo, su Canale 5 e poi andrà anche al nuovo programma di Ilaria D'Amico su Sky, tra l'altro titolo veramente geniale, Lo Spoglio. Questo è il titolo della trasmissione a cui sarà ospite Berlusconi. Neanche quotano la prima battuta di Berlusconi in un programma titolato Lo Spoglio. Ma allora parliamo di Moggi. Ah, è arrivata fino a Pechino. È arrivata fino a Pechino. È arrivata questa notizia a Pechino. Tutti a parlare di Moggi candidato, no? Cioè, voglio dire, siamo un popolo irrilevante. Un popolo irrilevante, addirittura. Siamo roba da gossip. Vabbè, cioè, ma questo dicono, ma ci dica qualcosa per tirare su di morale, perché qua non è che si può, cioè siamo feccia. Forchielli ci regala queste massime, siamo feccia, ci ha detto una volta, siamo irrilevanti adesso, siamo un popolo da gossip, siamo rincretiniti. E che dobbiamo fare? Sì. Questo è. Niente, aspettare che le nuove generazioni, speriamo che le nuove generazioni siano più sagge di quelle che le hanno precedute, capito? Vabbè. Donate dai debiti, speriamo che i giovani siano meglio dei loro padri o delle loro madri, perché qui veramente non devo fare. Io un'Italia migliore non la vedrò mai. Ormai ho 57 anni, un'Italia migliore non la vedrò mai. Ma tra l'altro, mi auguro che i giovani la vedranno, ma comunque è un processo rigenerativo che dovrà impegnare molte generazioni. Va bene, comunque lei ha nominato Berlusconi. Allora io siamo al bar condicio, d'altronde, e quindi avendo nominato Berlusconi, ora devo chiamare Berlusconi. Allora l'hanno chiamato là dalla redazione e vediamo se Presidente Berlusconi. Sì, pronto. Buongiorno. Che ore sono, Clebio? No, ma io non era in programma di averla ospite, ma Forchielli ha nominato Berlusconi e quindi per par condicio io la devo chiamare. Quindi come va? Tutto bene? Radio 24. Radio 24. Radio 24. Milan. Sì. Oh, lei ha un cognome che mi piace, quindi... Però insomma, non si può ogni lunedì mattina continuare a chiamare e a disturbare, è una cosa indegna, Cribio. Ma qua c'è Forchielli che nomina, è una questione di riequilibrio, Presidente, cosa, capisce che dobbiamo... E cosa dice? Tessere l'odio del PDL? Insomma, non proprio, ma al di là di quello dice che siamo un popolo rincretinito. E siamo feccia. Cosa fa? Mi ruba il copyright. Ho detto io che siamo un popolo di dodicenni che ragionano come dei dodicenni. Adesso cosa fa? Pretende di venire. Allora vede che nello schierarsi a favore del PDL piano piano inizia ad assumere anche il linguaggio. Bravo Forchielli, così mi piace. Abbiamo avuto, la ringrazio Presidente, abbiamo avuto anche l'endorsement di Forchielli. Forchielli, però glielo devo chiedere, ma lei chi vota? Tanto il voto è segreto, puoi dire. Chi vota in tutto questo sfascio, in tutto questo siamo feccia, siamo di qui, siamo di là? Forchielli vota, intanto vota all'estero o si presenterà in Italia a votare a febbraio? In realtà voto all'estero, per cui alla fine non sarò nel posto di residenza, per cui non voto. Non voto a Hong Kong, ma non voto. Voto. Alla fine non ci sono il giorno delle elezioni. Ho capito, ma può votare. Per cui alla fine non voto. Non voto, ma può votare anche a Hong Kong, può votare dove si trova. Lo so. No, io dovrei votare dove sono residente, dovrei. Ma non voto. Però non ci sono, e quindi non ho neanche l'imbarazzo. Probabilmente turandomi il naso, probabilmente voterei Monti, eccolo lì, voterebbe Monti. Va bene, allora intanto abbiamo raggiunto anche Bimbo Alieno, buongiorno, c'è stato qualche problema sui ponti, come direbbe Santoro, buongiorno a Bimbo Alieno, i ponti, blogger finanziario. Allora è il momento del mio quiz. Allora vi devo chiedere, secondo te Bimbo Alieno, cosa succede quest'anno il 21 giugno? Aiuto, il 21 giugno comincia l'estate. Lo so, e infatti è un facile quiz, ma la risposta è sbagliata. Perché c'è Forchielli, no, cosa? No, la prima risposta è quella che conta. Mike, buongiorno, insegna. Forchielli, cosa succede il 21 giugno in Italia? Forchielli è qua. Allora, risposta. Il Presidente della Repubblica. No. Allora, gli italiani quest'anno dovranno lavorare fino al 21 giugno per pagare le tasse, il fisco. L'anno scorso era il 20 giugno, quest'anno è il Tax Freedom Day. 21 giugno, cari italiani, oggi cosa siamo? 14 gennaio. Ne avete da lavorare, Bimbo Alieno. Hanno da lavorare, oggi andrete a lavorare per il fisco, domani per il fisco, dopodomani per il fisco, fino al 21 giugno. E poi il 21 giugno potrete iniziare a mettere soldi, quello che guadagnate per voi. È così, Bimbo Alieno, ma com'è possibile? Metà anno. Adesso è chiaro che il concetto di base è che dallo Stato si dà e allo Stato si riconosce, insomma. Sì, però abbastanza si riconosce allo Stato. Il problema che poni tu, immagino, è quello della misura, non del concetto di base. No, è chiaro. Di pagare le tasse, no? Ma 21 giugno, sai che onestamente credo che dipenda dalle categorie, perché per alcune categorie si vada ben oltre il 21 di giugno. Sì, no, ma è chiaro, è una pressione tributaria del 47,2%, è una media, credo, no? Non è che si può fare. Perché ci sono pensionati e dipendenti che abbassano questa aliquota, perché poi per le imprese addirittura superiamo il 60% di total tax rate, come dicono quelli imparati. E quindi andremo ben oltre, penso tutto il mese di luglio anche ci... Sì, in ogni caso il 21 giugno è già una buona data, c'è gente che pensa di mettersi in ferie fino al 21 giugno e pensa di risolversela così, forse non ha capito bene il concetto, insomma. Comunque potrebbe essere una soluzione quella di mettersi in ferie fino al 21 giugno e lavorare dal 22 giugno. Vabbè, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi torniamo. 24 mattino. Mi chiedo come mai i mezzi di informazione continuano a dare voce ad un soggetto che manifesta chiari segni di squilibrio mentale. Qualcuno dovrebbe intervenire per farlo interdire. Il pesce puzza dalla testa. Incominciamo a togliere tutti i privilegi. Vedi caso, medicine, visite, radiografie, dentiste e quant'altro. Che noi poveri cristi paghiamo e loro no. È necessario avere il barbiere pagato profumatamente, forse perché usa un rasoio d'oro? Siamo in tempo di saldi, saldiamoli sta gente! Allora Megan, se un povero pensionato sottrae un panino al supermercato passa guai seri, mentre Tani Colminetti, che ruba al contribuente anche per comprare un libro, sale addirittura al bar di Radio 24 e persevera. Ma mi domando, ma perché Radio 24 vuole essere complice di questo malcostume? Meditate, Milan e gente, meditate! Alessandra, che te devo dire? Questi qui ci hanno rotto le palle tutti quanti. Alessandro, siamo alla frutta. Hai sentito quello che ha detto Ingroia? Di essere stato intercettato. Ma secondo me la cosa che dovrebbe fare Ingroia è ritirarsi e continuare a fare il magistrato, magari chiedere una pensione anticipata e mettersi a scrivere libri, che forse gli viene meglio, non lo so. Nonostante tutte le ruberie, i malgoverni, le vessazioni alle quali siamo sottoposti come popolo, nonostante tutto siamo ancora la quarta o la quinta nazione al mondo. Noi siamo un grande popolo. Unico baluardo dell'informazione oggettiva. Quando avete sotto mano il politicante maledetto di turno, obbligatelo a parlare di programmi, progetti. Giannino for President. Questa è la nostra segreteria, ha sentito, siamo con Bimbo Alieno e siamo con Forchielli, ha sentito Forchielli, l'italiano che le risponde, siamo un grande popolo noi, altro che da gossip, altro che disgraziati, altro che feccia, altro che rincretiniti. No, che ride, è vero, siamo un grande popolo noi italiani, nonostante la politica. No, non ci credo. No. Beh, oggi, no, no, oggi fa che le... c'è purtroppo da Churchill, la De Gaulle, c'è sempre, come diceva De Gaulle, noi non siamo, l'Italia non è un paese povero, è un povero paese. Eccolo là, porca miseria. Senta Forchielli, ma non è che è troppo, c'è troppo smog a Pechino, per quello la sentiamo un po' giù, sì, di morale. No, perché oggi sul Corriere della Sera c'è mezza pagina dicendo che a Pechino non si respira più da giorni, c'è una nebbia fitta di smog, un disastro. Se è svegliato male per quello oggi che ce l'ha... Niente, non lo sento più. Forchielli, dove è andato? Bimbo Alieno è andato via, Forchielli, ci ha abbandonato sullo smog. Forse lo smog è davvero respirabile. È davvero respirabile. Ma io non ho capito, ma ci sono, allora, elenco di alcuni simboli. 215 simboli in campo, io capisco come si fa a non votare, se ci sono anche, c'è un ampio imbarazzo della scelta. Sì, però mi pare che ci siano parecchi simboli che poi di fatto non hanno firme, quindi non saranno poi... E chi lo sa, dimezziamo lo stipendio ai politici, questo è uno dei simboli che si presenta, pace, pane e lavoro. Anche questo potrebbe essere mica male. Oppure Sacro Romano Impero Liberale Cattolico. C'è anche la ho visto anche la lista Giovanni dalle Bande Nere. Certo, Giovanni dalle... Forchielli è tornato con noi, sì. Eccoci qua. Le racconto di Pechino perché è interessante. Sì, Pechino. Dunque, la l'inquinamento arriva fin dentro l'aeroporto. Cioè, quando lei esce... Io sono uscito dall'aereo ieri sera, che veniva da Singapore, la nebbia era anche... dentro l'aeroporto, cioè all'interno, non all'esterno, capito? Ah, che bel clima, insomma, una bella sensazione. Sembra di essere a San Martino di Castrozza. Adesso io sono qui in camera mia e non riesco malamente a vedere dall'altra parte della strada. Ah, pensavo riesco malamente a vedere il bagno, no? Perché c'era anche l'inquinamento. Adesso dentro... No, perché in casa sono chiuso, ma nell'aeroporto che ha spazi aperti, cioè uno nella sala bagagli... c'è la nebbia, lo smog. Bello. All'interno. Bellissimo, insomma. Comunque, dicevo, Forchielli, come fa a non votare? C'è anche civiltà rurale, Arsura del Sud, si schiera come simbolo. Valcamonica, zona franca, come non votare? Valcamonica, zona franca. E c'è anche poi Indipendenza Veneta, Comunità Lucana, c'è anche Staminali d'Italia, è fantastico. E poi anche questa, no alla chiusura degli ospedali. Credo che il programma sia un punto unico quello che ci sono un po' di simboli simpatici anche. Sentite Fiorello nella sua edicola che cosa propone. C'è Santoro, veramente alla prossima puntata per star sereno inviterà Winnie the Pooh. Eh sì, perché ormai ci hanno proprio... Hanno perché hanno fatto pace in televisione? Ho avuto questa sensazione. Ma è stato tutto, è stato, come diceva Aldo Grasso, è stato uno show. Ora ricordiamo che gli italiani devono scegliere chi votare non per una performance televisiva, giusto? Esatto. Perché sennò mi candido pure io. Scusa, se parliamo di performance televisiva, modesti a parte, allora mi candido, scusa, faccio un bel programma, faccio il 30%, via, andiamo. 30% Fiorello, secondo me se si candida prende più o meno quelle percentuali lì in questa politica un po' impazzita. Bimbo alieno, si è parlato poco di tasse. Io i giornali che ho davanti, ho veramente l'istinto, l'ho scritto anche ieri su Twitter, di farne un bel falò al giorno, perché non se ne può più nessuno che parla di programmi. Tu vedi qualcosa sui programmi, sulle cose concrete, o è tutto su... Guarda, è una disperazione. Parlare di persone, di facce. Adesso leggevo di Ruotolo che viene candidato da Ingroia. Sì, Sandro Ruotolo. Hanno paura, insomma, comunque sono infastiditi dall'essere definiti giustizialisti, e poi chiamano un giornalista che è diventato famoso su Twitter per aver sparso il nome di un innocente come autore della strage di... Bimbo alieno che bastona Sandro Ruotolo, va bene, bastona nel senso in maniera metaforica. Voglio dire, mi sembra una scelta dal punto di vista della lista Ingroia poco attenta, diciamo così, perché loro hanno questa tara di essere definiti giustizialisti. Avrei scelto diversamente, di personale contro Ruotolo. Vabbè, insomma, niente di personale, un po' di personale, insomma, uno che mette il mostro in prima pagina, peraltro non ha nemmeno mai chiesto scusa, insomma. Vabbè, non è piaciuta la candidatura di Sandro Ruotolo a Bimbo alieno, questo l'abbiamo capito. Noi però ci dobbiamo fermare qui, Bimbo alieno l'abbiamo ripreso un po' in coda, perché non so che è successo, c'è il cellulare spento, eccetera. Vabbè, rimedieremo lunedì prossimo. Forchielli, grazie per essere stato con noi nelle nebbie di Pechino. Ci troviamo presto, ovviamente, così Bimbo alieno. Noi andiamo ora al giornale radio delle 7, poi rientriamo con la rassegna stampa, i giornali, ragazzi, che sciagura, sempre tutti a parlare delle giravolte della politica, paginate di nulla, di nulla, di nulla. Rientriamo con i giornali alle 7:15. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua alle 7:20, nuovamente in diretta, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi avremo ospite Nichi Vendola alle 8:15, il governatore della Puglia e leader di SEL, uno dei protagonisti della campagna elettorale. Parleremo poi dalle 8:30 a un anno dalla tragedia del Giglio, della Costa Concordia, sarà con noi il ministro all'ambiente Clini, anche per capire, insomma, di quel relitto che rimane lì a due passi dalle coste dell'isola del Giglio, che ne sarà. Ne parleremo questo più avanti, dunque, ed ora andiamo a capire cosa ci propongono i giornali in edicola. In questo lunedì 14 gennaio, io l'ho detto subito prima per provocazione, ma davvero è un po' un disastro se uno guarda i giornali dal punto di vista della politica. Anche oggi troverete paginate e paginate di riposizionamenti, alleanze, composizione di liste, sulle cose concrete, che cosa propongono le coalizioni, i partiti. Nulla. Domani, chissà. Allora, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, in questo lunedì 14 giugno, casa, fisco senza freni, non buone notizie per chi ha una casa. Pensate, in 30 anni può finire in tasse il 50% del prezzo dell'immobile, una media dai 2.800 ai 3.800 euro l'anno, a seconda ovviamente della tipologia e della collocazione della casa. Corriere della Sera, l'apertura, leader in campo, 215 simboli. Repubblica, PD centristi, sfida sul Premier. Sono questi i titoli di apertura. La Stampa, tensione tra PDL e Lega su Berlusconi leader. Il Messaggero, PDL, scoppia il caso, liste pulite. L'Unità, PDL e Lega, l'ultimo imbroglio. Il Giornale, alla faccia della sobrietà, l'uomo di Monti ricatta il PDL, è dedicata ad Albertini. Insomma, queste alcune delle aperture. C'è anche il Fatto Quotidiano, un numero praticamente monografico, come spesso succede l'edizione del lunedì. Io ti adotto, sulle adozioni, capire le adozioni, tappe, requisiti per diventare genitori, tante pagine per un tema sicuramente importante, molto sentito da molti italiani. Queste alcune delle aperture dunque dei quotidiani che trovate. Io voglio partire proprio dai tanti articoli riguardanti un anno del Costa Concordia. Te pareva se Francesco Schettino ieri poteva starsene zitto? È stato uno dei protagonisti, per carità, della tragedia di un anno fa. Ricordate, 32 morti, 30 ritrovati e 2 invece persone che non si sono mai ritrovate. Ed è diventato un po' il protagonista anche ieri. Concordia, l'arringa di Schettino, così titola il Secolo XIX, pagina 7, con l'articolo di Francesco Margiocco, ma tutti un po' raccontano quello che è stato Schettino in TV. Il resoconto più interessante lo fa a pagina 3 Il Giorno, di quella che è stata la giornata che ha fatto incrociare, come si incrociarono un anno fa anche se al telefono, Francesco Schettino e il comandante De Falco. Ricordate quello della famosa telefonata "salga a bordo cazzo" a Schettino? Schettino in TV e De Falco va via. Io non faccio show come lui. È successo ieri a Domenica In da Massimo Giletti. Torni in trasmissione, cavolo, ecco, potrebbe iniziare così, e inizia così l'articolo di Stefano Cecchi a pagina 3 del Giorno, che racconta quello che è la giornata di ieri. A un certo punto la giornalista di inviata all'Isola del Giglio per Domenica In, che cosa fa? Avvicina il comandante De Falco. Ci piacerebbe averla in trasmissione qualche minuto con Giletti. Io vengo, ma solo per parlare del senso della mia presenza qui. Niente polemiche con nessuno, chiaro. Per carità, lo rassicurano, nessuna polemica. Avuta allora rassicurazione, De Falco si avvia verso la postazione Rai sul Molo del Giglio. Qualche sorriso, ma raro, apparentemente disteso, è però rigido. Di fronte al tecnico che gli chiede si può togliere il cappello, risponde è un berretto. Poi risponde anche una domanda sulla politica prima di andare in onda. Se mi avessero contattato avrei pensato a candidarmi, ma nessuno mi ha contattato e dunque non mi candido con Monti. La moglie è tutta terrorizzata, che dice lui è un gentiluomo, voi giornalisti ve ne approfittate, noi non vogliamo fare show. E De Falco, anche un minuto prima di intervenire, ha detto insisto con la giornalista, mi raccomando, non fate domande sulle responsabilità, non voglio fare lo Schettino del caso, non voglio confronti, ma si figuri, tutto a posto. Che cosa succede? Pam! In quel momento Giletti manda in onda un'intervista, per la verità registrata, proprio al comandante Schettino. Al che raccontano che De Falco, fuori onda, dice ma quello è Schettino! Ma allora voi volete farmi fare un faccia a faccia con Schettino? Non era nei patti? E allora se ne va via. E proprio mentre gli danno la linea si vede la giornalista disperata, io non l'ho vista ma la raccontano qui sul Giorno, che tenta di trattenere De Falco, che si toglie il microfono e se ne va via. Eccolo qua. Io non faccio show come lui. Insomma, la TV ha cercato un po' di buggerarlo, diciamo così. Al Giglio, il ricordo e la commozione, anche il Messaggero fa una pagina su questo. È interessante l'intervista che l'Unità fa a Enrico Rossi, cioè il presidente della Toscana, su questo tema. L'intervista al comandante è un'offesa alle vittime, così Marco Bucciantini, intervistando il governatore Rossi, che dice non mi interessa ciò che dice Schettino, io non sono giustizialista. Schettino avrà a disposizione il tribunale per spiegare e convincere chi dovrà giudicarlo, misurare penalmente le sue colpe, ma serviva maggiore sensibilità. Massimo Giletti poteva venire sull'isola, illuminare i volti delle persone e delle parenti, delle persone scomparse. Ha preferito invece offrire lo spazio di Domenica In al comandante, ma lo trovo offensivo verso i parenti delle vittime, i volontari, la gente comune che prova ancora rabbia per quella sciagurata rotta. A proposito di Schettino, che ha detto in questa intervista? Ha detto questo non era un inchino, l'abbiamo fatta sentire prima nel nostro spazio delle 6:30, non era un inchino, sono passato vicino all'isola. L'inchino si fa talvolta quando il comandante è di buon umore e quando non si vuole annoiare con la navigazione troppo i passeggeri, si fa l'inchino. Vabbè, alle 8:30 avremo ospite il ministro Clini, ministro dell'ambiente. Prima della pubblicità vi voglio raccontare questa notizia che ho trovato sul Corriere della Sera, pagina 20, che interesserà sicuramente molti genitori che spesso si lamentano dei pochi spazi giochi riservati ai bambini, soprattutto nelle grandi città. Sapete cosa stanno pensando a Bologna? Il piano di Bologna, far pagare un ticket per i giochi dei bimbi. Ma io l'ho letta, ho dovuto rileggerla 30 volte almeno per poter credere che possa essere vero questo. E poi nell'articolo di Francesco Alberti invece è tutto vero. L'assessore che sta pensando a questo è l'assessore all'urbanistica del Comune di Bologna, che insegna anche al Politecnico di Milano, Patrizia Gabellini. E racconta Alberti sgomenti cittadini che dicono tra un po' ci faranno pagare anche la Madonna di San Luca. Altri scomodano il mitico sindaco Giuseppe Dozza, venerato qui come un santo per aver rimesso in piedi la città nel dopoguerra. Ma vi immaginate le urla se vedesse che vogliono far pagare ai bambini anche i giochi dei parchi pubblici? Ebbene, l'assessore Gabellini dice che sì, è vero, stiamo prendendo in considerazione l'idea di privatizzare alcuni dei giochi dei bambini nei parchi pubblici. Abbiamo già ricevuto alcune proposte da parte di imprenditori e qualora andassero in porto sarebbe previsto un ticket di 1 o 2 euro, dipende. Detto ciò, è però assolutamente improprio parlare o solo ipotizzare una privatizzazione totale dei giochi per bambini. Il piano che stiamo elaborando prevede anche altre strade, dall'autogestione da parte dei genitori a forme di sponsorizzazione, e ognuno di questi strumenti può benissimo convivere con gli altri. Insomma, non è una privatizzazione dei giochi, delle altalene, degli scivoli, ma poco ci manca. E racconta l'assessore di Bologna che si sta pensando di concedere alcuni spazi ai privati e mettere 1 euro o 2 euro di ticket per far permettere ai bambini di andare sullo scivolo o sull'altalena. Tutto questo nel comune di Bologna. Ripeto, sarò antico, sarò sbagliato, sarò poco illuminato, ma mi sembra una roba allucinante. Andiamo alla pubblicità e al meteo. Alle 7:35 minuti. Allora, io dicevo che i giornali, sinceramente, sono, per quel che riguarda la politica, sono concentrati molto su quelli che sono i posizionamenti, le coalizioni, la formazione delle liste, i simboli, ma davvero una campagna elettorale che stenta a decollare, se non per nulla, sulla questione dei programmi, di cosa prevedono poi i partiti, di cosa prevedono le persone se venissero elette. Allora, per esempio, oggi gran concentrazione da parte dei giornali sulla questione dei simboli. Sono 215 poi simboli depositati, come titolo in prima pagina del Corriere della Sera, leader in campo, 215 simboli. Una polemica che in realtà durerà nel giro di 48 ore, perché domani arriveranno poi le decisioni da parte del Viminale, il Ministero dell'Interno, che dovrà cassare molti dei simboli che non rispettano le regole. Ci sono dei simboli anche un po', come dire, strani, almeno nella dicitura, come racconta pagina 2 e 3 il Corriere della Sera: angeli della libertà, liberi da Equitalia, pace, pane e lavoro. O ancora sacro romano impero liberale cattolico, democrazia atea. E ancora, che dire, si possono leggere tante. Beh, c'è il classico basta tasse. C'è dimezziamo lo stipendio ai politici, questo è uno dei simboli presentati. No alla chiusura degli ospedali. Poi ci sono quelli ovviamente che copiano, c'è il clone del Movimento 5 Stelle, ma c'è anche un quinta stella. E poi Lega Centro, ovviamente sono tutti sì, Forza Roma, ma c'è anche Forza Lazio, per par condicio, ovviamente è stato depositato anche questo. C'è la lista Giovanni dalle bande nere. e ancora Valcamonica zona franca, Indipendenza veneta, Sardegna nazione, Comunità lucana, No Oil, c'è anche questo come simbolo depositato, Staminali d'Italia, Viva l'Italia, che sembra un Forza Italia made in China, gli scrive Giovanna Cavalli, l'autrice dell'articolo. C'è il movimento Bunga Bunga e vabbè, c'è il mondo anziani. Insomma, ci sono tanti tanti simboli. Racconta il quotidiano nazionale che il ministro Cancellieri, sulla carica dei 215 simboli, ha detto: alle urne solo chi ne ha diritto. Pare ormai sgombrata la polemica, solo questione di ore. Entro tra oggi e domani verranno eliminati simboli anche clone, per esempio Beppe Grillo ha tuonato, se non vengono tolti noi ci ritiriamo dalla corsa, ma è abbastanza scontato, insomma è una questione anzi del tutto scontata che domani accadrà che verranno cancellati simboli che sono letteralmente uguali ad alcuni dei simboli più celebri e più consolidati che sono stati presentati e depositati al Viminale. Un caso, diciamo, i due casi della politica maggiori sono oggi sui giornali. Il primo è la questione di chi è il presidente della coalizione di centrodestra. Un caso è il logo del PDL, perché c'è scritto Berlusconi presidente, anche se Roberto Maroni, il segretario della Lega, anche qui ai nostri microfoni la scorsa settimana ha detto che c'è un accordo scritto, sottoscritto da Berlusconi, nel quale in questo accordo Berlusconi si prende l'impegno a non essere presidente, dunque si dice presidente di che? In realtà è presidente, beh, presidente del Popolo della Libertà, però accusano gli avversari, è un modo in qualche modo per ingannare gli elettori. Berlusconi presidente è un caso, il logo del Popolo della Libertà, così titola pagina 3 del Corriere della Sera nell'articolo di Andrea Garibaldi. Perché la Lega dice lui è la guida, sì, del suo partito. In realtà il presidente non è candidato premier, anche perché la legge elettorale non prevede che il candidato premier debba essere indicato prima. Tra l'altro Maroni viene intervistato dal Corriere della Sera da Marco Cremonesi a pagina 5 e proprio alla prima domanda: ce lo dica Maroni, chi sarà il premier del centrodestra qualora vinceste le elezioni? Questo non è un problema, è la polemica senza senso sollevata da chi ha paura. Parlo di Bersani e di Casini. Veramente Bersani non sembra messo così male. Lei dice, risponde Maroni, io credo che qualcuno abbia fatto i suoi calcoli troppo presto e non abbia capito la portata del patto che abbiamo sottoscritto nei giorni scorsi con il Popolo della Libertà. In una sola settimana abbiamo cambiato la faccia della politica italiana. Anche per la stampa c'è lite su questo. Berlusconi presidente, lite PDL Lega, però la scritta compare sul simbolo depositato al Viminale, ma Maroni dice non è lui il nostro candidato premier. Diciamo che questa è la prima polemica, se volete, sui giornali, se vi appassionate a questo. La seconda polemica è la questione dei cosiddetti impresentabili. Allora, le liste non sono state ancora presentate da tutti, il Partito Democratico le ha presentate, ma c'è ancora tempo per ufficializzare chi sono i candidati. Il centrodestra è alle prese con i cosiddetti, considerati dalla stampa, incandidabili. Per esempio si fanno i nomi sempre soliti di Cosentino e Dell'Utri, Cosentino in Campania e Dell'Utri in Sicilia. Per Repubblica c'è un'intervista, per la verità anche sul Messaggero, del presidente della regione Campania Stefano Caldoro, che invita soprattutto Cosentino a fare un passo indietro. Facciano un passo indietro, per colpa loro rischiamo tutti. Così Stefano Caldoro, intervistato da Concita Sannino su Repubblica pagina 11, non mi piacciono i kamikaze. Così dice Stefano Caldoro iniziando l'intervista con nettezza. Nicola Cosentino nella parte alta della lista del PDL al Senato. Io sono garantista, dice Caldoro. Ma in politica ognuno dovrebbe capire quando è il momento di fare un passo indietro. Se siamo in volo dovremmo proteggerci dai rischi e dalle esposizioni e dovremmo proteggere anche i passeggeri e l'equipaggio, non prevedere i kamikaze. Dunque sono dei kamikaze, secondo Caldoro. Tra lei e Cosentino è sfida politica e giudiziaria, ma risponde così Caldoro: lasciamo i processi alle aule giudiziarie, lì ho fatto un atto doveroso, se sono un politico devo dimostrare che mi interessa la verità e che ho fiducia nell'accertamento dei giudici. ma via il gossip, parliamo di questioni politiche. Io mi sento un garantista autentico, non innocentista a prescindere, contro i pubblici ministeri che magari per qualcuno sono un cancro, mentre noi siamo tutti intoccabili. Non sarò mai un forcaiolo, però in questo caso c'è una oggettiva situazione di incompatibilità politica. Dunque dice no alla candidatura di Cosentino. Così anche nella stessa intervista a Marco Conti, al Messaggero, Nicola sia responsabile e rinunci. La verità, racconta il Corriere della Sera con Lorenzo Fuccaro a pagina 6, che pare proprio certo che Cosentino verrà candidato. Comunque tutti i nomi sono blindati dal commissario del PDL in campagna, in questo caso è Nitto Palma, ex ministro all'interno. Verrà candidato Cosentino, verrà candidato Dell'Utri. Ecco, questo è l'altro tema appassionante che trovate sui giornali e che sarà sciolto a giorni, perché a giorni c'è la presentazione delle liste. Un altro giallo l'ha regalata la stampa a Gabriele Albertini. Gabriele Albertini ha fatto questa uscita che abbiamo sentito anche in GR24 contro Formigoni, reo politicamente di averlo in qualche modo appoggiato prima e poi scaricato per stare con Maroni. Anche Albertini ha detto: se parlo io, Formigoni stia attento, perché so cose che lo manderebbero KO. Apriti cielo, che vuol dire so cose che lo manderebbero KO? Addirittura dalla Lega hanno accusato Albertini di usare un linguaggio che si usa coppola in testa, cioè un linguaggio mafioso. Albertini fa un'intervista alla stampa, intervistato da Michele Brambilla, pagina 5. Non potevo più essere connivente col Cavaliere, parla di tutti i suoi rapporti con Berlusconi, dicendo non potevo più accettare di stare con lui. Era sinceramente convinto di poter trasformare il paese in senso liberale. Poi forse gli attacchi giudiziari, la continua conflittualità l'hanno convinto che aveva ragione Mussolini quando diceva che governare gli italiani non è impossibile ma inutile, e allora si è messo a pensare prevalentemente ai propri interessi. In questa intervista in realtà parla poco di questa vicenda con Formigoni, forse è stata realizzata prima dell'uscita. Però dice a un certo punto anche in questa intervista: Formigoni stia attento, perché io non voglio far del male a nessuno purché non se ne faccia a me. Ma certo, questa frase è abbastanza incredibile, insomma. A che cosa si riferiva Gabriele Albertini? In realtà ha fatto delle precisazioni, a dire nulla di giudiziario ma solo di politico, nulla di personale, nulla di scandaloso ma solo politico, cioè ha fatto delle mosse politiche Formigoni che se io parlassi lo manderei KO. Ecco, non so, ha rimediato così, chi lo sa. Parla anche Gianfranco Fini, che per la verità nei sondaggi non è accreditato di grandi percentuali nella coalizione con Casini a sostenere Monti. Intervistato da Repubblica da Alessandra Longo, in realtà lui dice: noi siamo la vera e unica novità di questa politica, di una campagna elettorale, il nostro rassemblement di riformatori di destra, centro e sinistra. Rassemblement, devo dire che l'ho già sentita abbastanza spesso, e non da Gianfranco Fini in questa campagna elettorale. Racconta Fini: Monti esprime una vocazione maggioritaria, compete per vincere, non per impedire a Bersani di governare sfilandogli la possibilità di avere la maggioranza al Senato. L'unica novità rispetto alle sfide del passato è proprio questa coalizione di cui faccio parte, una sintesi di culture politiche di destra, sinistra e centro, tenuta assieme non dal libro dei sogni ma da un'agenda riformatrice per il paese. E a chi gli accredita appunto poco in termini di gradimento da parte degli elettori, Fini risponde: parliamone dopo il voto. Questa intervista la trovate a pagina 4. Niente favore alla sinistra, e per la caduta di Berlusconi devono ringraziare me, dice Fini, che poi alla domanda precisa la possibilità che Berlusconi vada al Quirinale, le possibilità sono zero. Questa è l'opinione di Gianfranco Fini. Vabbè, la politica più o meno è tutta qui sui giornali. Noi avremo ospite Nichi Vendola, c'è anche la straordinaria candidata a sua insaputa, succede anche questo nella campagna elettorale attuale in Italia, una candidata a sua insaputa, tra poco. Eccola qua, arriva la candidata a sua insaputa, si chiama Silvia Pasinato, è sindaco nel Vicentino, nel paese di Cassola, spero che sia Cassola, Peter Bescapè subito mi guarda. Ditemelo, cari ascoltatori, al 349-238-6666. Cittadini di Cassola, cassolesi, cassolani. È così che si dice? Sì, spero di sì. Silvia Pasinato, che ha combinato? Ha mandato, e lei è del PDL, ha mandato però un curriculum anche a Monti. A meno, così dice Io, nel titolo dell'intervista di Repubblica, candidata a mia insaputa per colpa di un curriculum a Monti. Allora, candidata con Monti, posizione blindata, quinto posto alla Camera, Veneto 1. Dopo un giorno, 24 ore, candidata nel PDL. Ma come? Che succede? Allora, Repubblica con Nicola Pellicani va a intervistarla. Mi sono ritrovata candidata con Monti, senza aver mai accettato la candidatura. Ma io sono sempre stata del PDL. Ma come? Com'è finita nella lista? Ma non lo so. Io mi sono limitata a inviare un curriculum. Bastasse questo per entrare in Parlamento, mi sembrerebbe troppo facile. Ma mi scusi, perché ha inviato un curriculum a Monti se lei è del PDL? Le spiego. Prima di Natale ho partecipato in compagnia di alcuni moderati provenienti dal mondo dell'associazionismo, ma vicini al PDL, a un paio di convegni del movimento di Oscar Giannino. Ero tra il pubblico, ero lì per ascoltare. Ma il curriculum è sempre attraverso quelle persone. Ho preparato un curriculum, l'ho inviato a un amico che evidentemente l'avrà inviato a Roma. Tutto qui. Capite cosa succede? Cosa basta per farsi candidare? Mandare un curriculum a un amico che lo manda a Roma, che lo gira a Monti o a qualcuno e si è ritrovata candidata per Monti. Questo almeno racconta Silvia Pasinato. Ma il giorno dopo dice mi candido col PDL, tanto mi confermano gli ascoltatori, vedete, Cassola, allora l'abbiamo detta giusta. Vabbè, succede anche questo. Parliamo di cose un po' più concrete e ahimè un po' tristi. Le tasse, tristi, no? O siete di quelli che pensate che pagare le tasse siano una cosa meravigliosa, come diceva Padoa-Schioppa? No. Soprattutto sulla casa, oggi l'apertura del Sole 24 Ore, casa, fisco senza freni. Sapete quanto si può pagare in 30 anni in tasse per i proprietari di casa? Fino al 50% del prezzo dell'immobile, sono una media dai 2.800 ai 3.800 euro l'anno che se ne vanno in imposte, il conto salato del fisco sul mattone. Trovate tutti i dettagli con Saverio Fossati e Gianni Trovati a pagina 3. Ecco, ci dicessero qualcosa i politici su cosa fare, per esempio, di concreto, per ridurre le tasse su questo. Quasi quasi me ne compro un'altra, scrivono Fossati e Trovati. Con quello che il fisco prende dalla casa nel corso della vita media immobiliare di un cittadino, ci scapperebbe un altro bilocale. Insomma, come se lo Stato avesse fatto un gigantesco investimento sul mattone, però senza tirare fuori un euro. Il titolo di possesso è sufficiente a garantire la spremitura annuale che dopo 50 anni assume dimensione incredibile, arriva a 150.000 euro e passa. Capito? 50 anni di tasse sulla casa, pagate 150.000 euro, ci scappa un bilocale che lo Stato si fa a spese dei proprietari. A proposito di tasse, oggi il Corriere Economia, il Corriere della Sera, fa insieme, come fa ogni anno insieme alla CGA di Mestre, il conto sulla cosiddetta liberazione dal fisco, il Tax Freedom Day, il conto di quanti giorni bisogna lavorare durante l'anno per il fisco e poi da quel giorno in poi sarete liberi dalle tasse, di poter intascare tutto. Volete sapere quest'anno quando è stata fissata la data? Il 21 giugno. La liberazione dal fisco ci costa 172 giorni di lavoro. È un giorno in più rispetto all'anno scorso. Per la verità qualcuno fa notare che l'anno scorso era bisestile, quindi dovrebbero essere due giorni in più. La liberazione fiscale quest'anno arriverà il 22 di giugno, passato il solstizio d'estate, dopo 172 giorni di lavoro. Nel 2012 erano stati sufficienti 171 giorni per pagare imposte e contributi. Ah no, allora è un giorno in più. 24 ore in più di lavoro da pagare al fisco. Andando avanti di questo passo si rischia davvero di superare la soglia del 30 giugno, che vorrebbe dire lavorare più per lo Stato che per sé e per la propria famiglia. Lo trovate sul Corriere Economia. Per pagare tasse e contributi dovremo lavorare fino al 21 di giugno. Siete contenti? E allora, cari ascoltatori, al lavoro! che fino al 21 giugno dovete pagare i soldi allo Stato. E chiudo con la Gazzetta dello Sport. Juve, che ti succede? Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. La Juventus ha un po' rallentato nel passo verso il certo scudetto. E allora è tempo di giornale radio delle 8 e poi ci ritroviamo con Nichi Vendola alle 8:15 e il ministro dell'ambiente Clini per parlare di un anno dalla tragedia della Costa Concordia dalle 8:30. Ventiquattro mattino, l'Italia si desta. Eccoci qui nuovamente in diretta, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, per parlare di politica, il nostro ospite di oggi è leader di SEL, nonché presidente della Puglia, Nichi Vendola. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, ieri lei ha detto che il centrosinistra ha diritto a governare senza badanti, ma perché lei esclude la possibilità di un accordo con Monti se dovesse essere necessario, visto magari un pareggio al Senato? Sono, credo, profili di incompatibilità dal punto di vista dei programmi, dell'impostazione politico-culturale. Monti è il rappresentante di un blocco liberal-conservatore, è stato uno degli interpreti di quella politica dell'austerity che ha messo in grandissima difficoltà tutta l'Europa, che rischia di essere, diciamo, uno sbarramento al sogno di un avanzamento sul piano dell'unificazione, dell'allargamento dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti d'Europa vivono, se l'Europa non è un corpo morto, se l'Europa è difesa dei diritti sociali, se è welfare, se è diritti di libertà. Ecco, io credo che con Monti, con il blocco liberal conservatore, bisognerà discutere e trovare punti di collaborazione sulla riforma dello Stato, sì, che sarà un pezzo importante della prossima legislatura. Ma francamente penso che i progressisti, il polo del nuovo centrosinistra, abbia il diritto di governare senza ipoteche, senza eterodirezioni, sì, perché bisogna imprimere oggi una svolta reale al Paese. Ma se ci fosse un pareggio al Senato per cui fosse necessario allearsi, non ci fossero i numeri per poter avere una maggioranza al Senato, lei lo scriverebbe se comunque? Non c'è una maggioranza, la coalizione che, diciamo, risulta vincente, sia pure con questo impedimento, si presenta alle Camere con il proprio programma e cerca di verificare in Parlamento quali siano le forze disponibili a sostenere un programma di responsabilità e di svolta. Però, insomma, il punto è questo, il punto è capire oggi se è fondamentale investire sull'innovazione, sulla ricerca, sulla scuola, sulla cultura, sull'ambiente, cioè quelle cose che non ci sono nell'agenda Monti. È un'agenda che, per esempio, non parla di green economy, non parla di nuova politica dell'immigrazione. Cioè, io non voglio minimamente denigrare il professor Monti, penso che onestamente la coalizione Monti, Fini, Casini legittimamente concorra a questa competizione elettorale, ma non penso che debba poter incontrare dal punto di vista dell'alleanza di governo, sì, il centro-sinistra. Senta, perché invece lei, Vendola, ha aperto a Ingroia? Cosa c'è di perché dal PD c'è stato subito, mi pare, un blocco alla possibile apertura a Ingroia. Cosa vede invece lei di comune tra SEL e Ingroia? No, io dico un'altra cosa. Ingroia è un protagonista rispettabile, penso che non ha fatto il suo esordio con la consueta modalità della guerriglia a sinistra, interloquisce con il centro-sinistra e ha dentro la coalizione degli arancioni un coacervo di forze tra di loro contraddittorie. Ci sono forze che pensano di essere completamente alternative al centro-sinistra, come Rifondazione Comunista per esempio, ci sono altre forze che invece pensano di collaborare col centro-sinistra. Penso che sia più corretto dire a tutti coloro che sono seduti in Parlamento. Ecco, questo è il programma che ha ricevuto il consenso più grande dal voto degli italiani. Chi lo condivide? Altrimenti si va a rivotare. Altrimenti muore la politica, cioè muore l'idea più bella della politica, che è la contesa delle idee. Ecco, questo è quello che mi mette i brividi nel discorso del professor Monti, è di ritenere superata la distinzione tra destra e sinistra proprio lui, che vorrebbe rendere l'Italia più europea, vuole chiudere quell'elemento che fa vivere la politica in tutta Europa, appunto, come una contesa tra programmi, tra visioni della società. Ecco. Tra l'altro di programmi si parla pochissimo, allora mi faccia fare qualche domanda sui programmi, soprattutto sull'economia. Lei dovesse essere al governo, la prima cosa che farebbe per abbattere il debito pubblico, il primo provvedimento qual è? Guardi, non ci sono formule magiche o degli abracadabra, il punto è il seguente, la politica della imposizione fiscale, questa pressione fiscale che è aumentata con Berlusconi e anche con Monti, ha toccato il picco più alto del mondo. Da un lato quindi il fisco, veramente un fisco carico di vessazione nei confronti del lavoro e nei confronti delle imprese. Dall'altro i tagli allo Stato sociale che impoveriscono i redditi delle famiglie. Le famiglie devono con il loro portafoglio, diciamo, cercare di esercitare i propri diritti perché non vengono più coperti dal pubblico. Beh, questi due fatti messi insieme, più tasse e meno servizi sociali, producono veramente un impoverimento della società. E allora ha voglia a tagliare per cercare risorse da buttare nel buco nero del debito pubblico? Se la società si impoverisce, il debito pubblico difficilmente scenderà. Il problema è produrre politiche di crescita, il problema è lottare contro la disoccupazione, il problema è fare lavoro, politiche attive per il lavoro. E da questo punto di vista io credo che, diciamo, da un lato la green economy sia lo scenario più promettente se si vuole veramente guardare la tragedia di una generazione senza lavoro, e dall'altro innovazione. Però mi scusi Vendola, sulle tasse è un po' uno slogan di tutti, abbasseremo le tasse. No, è un qualcosa... però c'è un problema, che Monti e Berlusconi sono partiti alzando la bandiera della lotta contro le tasse, ma sono entrambi i responsabili del più alto innalzamento del prelievo fiscale della nostra storia. Se permette, in questo momento in Italia l'unico che le tasse le ha abbassate sono io nella mia regione, sia pure di poco, ma ho ritoccato in giù le aliquote fiscali. La patrimoniale lei la vorrebbe una patrimoniale, e se sì come? Io vorrei lottare contro la patrimoniale che c'è, perché oggi c'è la patrimoniale sul ceto medio, c'è la patrimoniale sulle classi popolari, perché l'IMU sulla prima casa è, diciamo, si aggiunge a questo assedio che sta soffocando la vita di molte famiglie. Lei la toglierebbe? Di piccole imprese. Lei la toglierebbe l'IMU sulla prima casa? Io penso che bisogna lavorare, naturalmente anche qui con realismo, osservando esattamente la situazione e misurandosi con le compatibilità, ma penso che bisogna avviare un percorso che consenta di abbattere l'IMU sulla prima casa, innanzitutto che consenta di abbattere subito l'IMU per i redditi bassi per quanto riguarda la prima casa. Viceversa, credo che bisogna ragionare in termini di patrimoniale più che per gli immobili, quanto riguarda la ricchezza finanziaria, anche per una ragione, diciamo, economica. Io non lo dico per una ragione di invidia sociale, penso che bisogna stimolare il reimpiego della ricchezza. Quando la ricchezza si congela e diventa rendita finanziaria, in qualche maniera tutti ne abbiamo un danno. Noi dobbiamo stimolare il ritorno della ricchezza nell'economia reale. Ma come? Cioè una patrimoniale sulla rendita finanziaria, che ne so, la Tobin Tax, come qualcuno ha previsto per i movimenti finanziari, o piuttosto chi guadagna un tot deve essere tassato? Ma noi dobbiamo poter immaginare innanzitutto di stanarla questa ricchezza, perché se si immagina che quella finanziaria del paese stimata in 4.000 miliardi di euro e che viceversa meno di 1.000 persone dichiarano nella denuncia dei redditi più di 1 milione di euro all'anno di reddito, siamo di fronte a una ricchezza largamente imboscata. Allora, la tassazione alle transazioni finanziarie, la tassazione sugli attivi finanziari, credo che siano, diciamo, in linea con quello che si fa in quasi tutti i paesi occidentali. Penso che non sia una proposta bolscevica, tanto più oggi siamo di fronte veramente a un passaggio che assomiglia a un dopoguerra. Dobbiamo ricostruire il paese e il sacrificio, per la prima volta dovrebbe essere chiamato a farlo quel mondo della ricchezza che è stato sempre un mondo esentasse. Senta, non è stato neanche bolscevica l'uscita contro Depardieu, quella che va dall'inferno, Depardieu che no, se ne va in Russia. È stata molto da sepolcri imbiancati la tentazione luciferina di farmi dire una cosa che non avevo detto. Va dal diavolo, l'ha detto. Pier Ferdinando Casini. Ah. Io ho fatto una battuta su Gérard Depardieu, non solo su uno che si ribella perché non vuole pagare le tasse, ma uno che espatria, uno che abbandona la sua nazione, la sua patria e si consegna nell'abbraccio a Putin. Ecco, io questo penso che in un'Europa in cui torna così drammatica la povertà come il centro della questione sociale, la ribellione dei ricchi che non vogliono dare il proprio contributo alla risoluzione della crisi, mi pare veramente un atteggiamento che meriti, come posso dire, una risposta di tipo evangelico. Che va dall'inferno. A proposito di povertà, lotta alla povertà, lei perché è favorevole allo stipendio minimo come ha proposto Juncker, lo stipendio in Europa o comunque anche in Italia? Beh, ecco, diciamo così, l'Europa, sarebbe più forte l'Europa se in tutto il vecchio continente ci fosse una soglia minima. Dal mio punto di vista sarebbe interessante immaginare anche una soglia massima delle retribuzioni. Addirittura? Cioè... Perché no? Nella mia idea, dal punto di vista per esempio delle pubbliche amministrazioni, sarebbe una cosa sensata porre un limite non soltanto in basso ma anche in alto. Credo che un funzionario pubblico, un pubblico dipendente non debba godere di stipendi o di pensioni d'oro. In teoria già così sarebbe, poi magari non viene rispettata, però ci sono dei, hanno provato a mettere anche dei tetti in alto. Sì, bisognerebbe essere un pochino più rigorosi. Come sa, il rigore è una bella formula, talvolta è una formula magica, soltanto che si è molto più rigorosi con una parte della società e molto meno rigorosi con un'altra parte della società. Quando si tratta di bussare a casa dei pensionati o dei giovani precari o delle famiglie normali, credo che queste classi dirigenti si presentino senza tanti complimenti. Quando si tratta di bussare a coloro che abitano nei piani nobili dei palazzi del potere, allora le classi dirigenti diventano sempre molto pudiche. Ecco, io vorrei fare il contrario. Il contrario. Mi faccia fare due domande flash. Prego. Per concludere. La prima, Berlusconi al Quirinale, lei come lo vedrebbe? Ma stiamo parlando di cose che mettono i brividi, perché Silvio Berlusconi ha incarnato una stagione di regresso. È stato ed è nel mondo l'icona di una politica che usa le cose pubbliche per compiere affari privati. Penso che l'Italia sia stata già fin troppo danneggiata da Berlusconi. Immaginarlo al Quirinale è davvero agghiacciante. E l'ultima battuta è, guardando Oltralpe, in Francia centinaia di migliaia di persone hanno sfilato ieri contro i matrimoni omosessuali. Lei, che invece è favorevole, così come alle adozioni per gli omosessuali, cosa direbbe a quei francesi che hanno sfilato? Che nessuno di loro è obbligato a fare un matrimonio gay. Il problema è che bisogna educarsi a conoscenza degli altri. Bisogna educarsi a sapere che i diritti delle minoranze qualificano il pluralismo e la democrazia. Tuttavia mi pare questa una battaglia di retroguardia destinata a essere sconfitta dalla storia. È la storia che condanna coloro che permangono sulle trince di una morale tradizionalista da imporre a tutti. La ringrazio, buona giornata. Ovviamente a lei come a tutti, in bocca al lupo per la campagna elettorale. Viva il lupo, eh! Chi? E abbasso le carabine. Va bene, grazie a Nichi Vendola per essere stato con noi, leader di SEL e presidente della Regione Puglia. E che dire, ci fermiamo per qualche minuto e poi parliamo a un anno dalla tragedia del Giglio. Con noi ci sarà il ministro dell'ambiente Corrado Clini, anche per capire che cosa succederà di quel relitto, la Costa Concordia, che ancora è lì, si lavora giorno e notte per toglierlo. E poi c'è ovviamente ieri il ricordo della tragedia dei 32 persone morte in questa tragedia. Ci sono state anche le doverose, consuete polemiche all'italiana per un'intervista al comandante Schettino. 24 mattino. Alle 8:36 minuti siamo qui. Allora, un anno fa esattamente la tragedia del Giglio, la Costa Concordia, che andò a sbattere contro uno scoglio. Ci sono stati 32 morti, 30 corpi recuperati, 2 ancora dispersi, e ieri ovviamente ci sono state le celebrazioni. Con noi c'è il ministro dell'ambiente Corrado Clini, che saluto e ringrazio. Buongiorno ministro. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Saluto anche il vice sindaco del Giglio, Mario Pellegrini, che quella notte ovviamente ce la potrà raccontare perché l'ha vista da protagonista in prima persona. Pellegrini, buongiorno. Buongiorno lei, tra l'altro, a lei, al ministro e agli ascoltatori. Lei tra l'altro salì anche a bordo quando ci fu stato l'impatto. Senta, intanto ministro Clini, le chiedo questo. Dal punto di vista tecnico, quando si toglierà questo relitto della Costa Concordia, che immagino faccia ancora impressione vedendolo lì da due passi, come ha visto anche lei ieri? Beh, certo, il relitto fa impressione, anche se ora abbiamo più che un relitto un cantiere, perché da mesi ormai è stato avviato il lavoro per la rimozione, un lavoro che sta andando avanti in modo incessante, continuo, che certo ha avuto dei ritardi perché è la prima volta che si fa un progetto del genere. Ritardi in parte dovuti anche al fatto che abbiamo voluto dare 40 prescrizioni per essere sicuri che le operazioni di rimozione, perciò tutte le operazioni sullo scafo, sì, avvenissero in condizioni di sicurezza ambientale. Dal punto di vista ambientale, al momento siamo riusciti a garantire la migliore sicurezza, ovvero ad evitare che ci fosse un disastro ambientale che poteva esserci, che era altamente probabile per il carburante, le condizioni iniziali per il carburante e per gli altri fluidi. Ora dobbiamo lavorare per progressivamente svuotare la nave che si è riempita di acqua di mare, che ha, come sapete, una capacità corrosiva importante e che perciò può determinare una miscela all'interno della nave stessa di prodotti che potrebbero essere pericolosi per l'ambiente. Mm-hmm. Svuotandola faremo anche insieme un'altra operazione importante, che è quella di alleggerire la nave in maniera tale da rendere più facile poi le operazioni di galleggiamento che di trasporto. C'è una data di fine lavori, diciamo. Ma così? La previsione che è stata aggiornata è più o meno settembre di quest'anno, perciò autunno del 2013. E poi che ne sarà di questo relitto? Io credo che debba essere portato nel porto più vicino, dove deve essere smontato e chiusa la partita. Credo che sia importante anche identificare rapidamente questo porto, che in base alle carte nautiche è Piombino, perché quello che dobbiamo evitare è che una volta finiti i lavori al Giglio non si sappia poi dov'è che questa nave deve andare. Questo film bisogna assolutamente evitarlo, perciò io sto sollecitando la, che vada a Piombino. Ma da cosa, cosa dipende, ministro? Ma cosa dipende? Cioè il porto deve accettare questa cosa? Dipende da un decreto del governo piuttosto che... No, dipende dal completamento del progetto, che fa capo primariamente alla responsabilità dell'impresa. Naturalmente la possibilità di ricoverarla in un porto piuttosto che in un altro dipende anche dalle condizioni del porto. Sì. Esistono le possibilità perché nei prossimi mesi il porto di Piombino sia attrezzato adeguatamente se si riuscirà a ridurre il pescaggio, ovvero della nave, ovvero ridurre il peso. Peraltro, se il pescaggio dovesse rimanere quello che è attualmente, a causa del peso, sarebbe molto difficile trovare un porto in Italia che sia pronto, perché 20 metri di pescaggio, come sarebbe attualmente, sono molto impegnativi. Senta, ministro, ho letto da qualche parte che il costo si aggira sui 450 milioni di euro per tutta questa operazione. Chi paga questo conto? Il costo è a carico dell'impresa. Quello che il contributo che può essere portato a livello pubblico, intanto c'è un contributo che abbiamo già portato nel corso di questi mesi, perché direi che fin dal primo momento tutte le attività che sono state svolte dalle capitanerie di porto, dai vigili del fuoco, dalle forze dell'ordine, il lavoro costante di assistenza e perciò in qualche modo di consulenza tecnica nei confronti prima della progettazione, poi della valutazione, questo è un lavoro che è stato fatto, che viene fatto concretamente e continuamente dal pubblico, e questo è già un importante contributo. Poi è evidente che minore sarà il pescaggio della nave, minore sarà il peso, più facile sarà anche in qualche modo infrastrutturare un porto con risorse che potrebbero essere pubbliche. Però purtroppo diciamo che dei costi anche pubblici ci sono, insomma, inevitabilmente si ci sono, sì. Si possono quantificare? Si sono già quantificati? No, anche perché sostanzialmente noi abbiamo messo a disposizione 5 milioni di euro come Ministero dell'Ambiente per la Protezione Civile, sappiamo però che questi costi, che sono per spese dirette, perciò interventi al di fuori dei costi per la gestione, perciò del personale, dell'attrezzatura eccetera, che queste risorse sono ancora disponibili. C'è tutto il costo diciamo dell'apparato, dell'infrastruttura, che è un costo di personale, che è un costo da quantificare, interventi che non è quantificato. Senta, ministro Clini, poi parliamo tra l'altro anche un attimo di quella notte con anche il vice sindaco Mario Pellegrini, però lei ha trovato scandaloso, per esempio oggi il presidente della regione Toscana ha detto è stato inopportuno per domenica in intervistare Schettino. Lei come giudica il fatto che ieri sia apparso Schettino, anche se registrato in un'intervista a Domenica In? È stato inopportuno oppure è una cosa che si può fare? Guardi, io ho non entro nel merito delle scelte editoriali delle televisioni, però vorrei che fosse chiara una cosa. La vicenda della Concordia mette in evidenza che la superficialità, la scarsa competenza non possono essere tollerate, non possono essere neppure lontanamente giustificate. Ora, quello che ci insegna la Concordia come lezione generale è che non è possibile in una organizzazione sociale, industriale, così integrata e che utilizza tecnologie molto delicate, affidare responsabilità a chi non è in grado di assumerle. Ma secondo lei non è competente, non era in grado di assumere le Schettine? Non credo che sia opportuno mai dare possibilità di in qualche modo offrire interpretazioni che possono rappresentare delle scusanti a chi ha dimostrato di non essere in grado di assumersi le proprie responsabilità. Questo si riferisce a Schettino proprio. Assolutamente sì. Il traffico, e poi rientriamo anche con il ministro Corrado Clini, ministro dell'Ambiente, e Mario Pellegrini, vice sindaco del Giglio. Strade in diretta. Lungo la 13 Bologna-Padova le code hanno raggiunto i 6 km tra il Tedo e Ferrara Nord in direzione Padova per un incidente con tre vetture coinvolte. Sulla 4 Torino-Milano è stata chiusa l'uscita di Novara Ovest in direzione Milano a causa di un incidente. Altre code in entrata a Genova sulla 12 Genova-Livorno per un veicolo in avaria prima del bivio per la 7. Circolazione poi condizionata dal maltempo anche quest'oggi, nevica tra Emilia e Triveneto, moderatamente a quote collinari, nevischio sulla pianura padana centro-orientale, abbondanti le nevicate in Slovenia, i camion non possono circolare oltre confine e vengono dunque fermati agli autoporti. Ci sono disagi invece per la circolazione ferroviaria, interrotta per il maltempo e sostituita da autobus tra Monfalcone e Trieste. Piogge sparse al centro-sud, più intense sulle regioni tirreniche, attenzione anche alle raffiche di vento, a Napoli sono fermi gli aliscafi per le cattive condizioni del mare. Traffico del mattino sul resto dei percorsi con code e rallentamenti attorno alle principali città. È tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora. Guardi Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, le faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! Vabbè, uno dei sunti della telefonata che è diventata storica anche di quella notte, il capitano di fregata Gregorio De Falco, che intimava quest'ordine perentorio a Schettino che aveva abbandonato la nave, ha lasciato la nave, poi ora si vedrà se, come dice lui, non l'ho abbandonata ma semplicemente si era inclinata e quindi ho dovuto lasciarla. Siamo con il ministro dell'Ambiente Corrado Clini e il vice sindaco del Giglio Mario Pellegrini, che al quale voglio chiedere, a lei Pellegrini, lei che quella notte, tra l'altro, se ricordo bene, prese la propria barca e andò sulla nave per cercare di aiutare le persone. A lei che effetto fa all'anniversario aver visto il comandante Schettino parlare? Eravamo un po' non sono andato con la mia barca ma con una scialuppa di salvataggio, sì. La prima scialuppa che è arrivata in porto, mi sono fatto riportare sotto la nave. Rimango molto apprezzato dalle parole che ha detto il ministro e penso che siano corrette, perché poi vedere questa arroganza non è proprio una cosa piacevole, però ieri insomma eravamo un po' impegnati e non l'ho visto, ecco. Che un anno dopo, oltre ovviamente alla tragedia per i morti, alla tragedia anche per l'isola del Giglio, verrete sempre ricordati, non voi come vittime di quello che è successo, verrete sempre ricordati nella storia per questa vicenda. Quali erano le sensazioni che si respiravano sull'isola? Di ieri? Sì, sì, certo, a un anno di distanza. Ieri le sensazioni si respiravano, personalmente ho rivisto anche persone che ho collaborato quella sera, con cui ci siamo dati una mano nel tempo di portare in salvo delle persone, quindi mi ha fatto molto piacere e mi ha stretto anche il cuore. Mi ha stretto il cuore come mi ha stretto il cuore vedere i parenti delle vittime, che ormai noi conosciamo bene perché non è la prima volta che venivano, quindi cerchiamo di dare questo tutto in un comportamento abbastanza dignitoso e stringendoci a loro, ecco. Tra l'altro un anno fa lei ministro dov'era? Qual è la prima immagine che ricorda? Come la avvisarono di quello che era successo? Fui avvisato dal direttore generale del ministero che ha la responsabilità del mare, Renato Grimaldi, che aveva immediatamente attivato i nostri sistemi, i nostri mezzi per la prevenzione dell'inquinamento marino già nella notte, e naturalmente la Capitaneria di Porto. Noi abbiamo presso il Ministero un presidio permanente della Capitaneria di Porto che è dedicato proprio anche alla gestione delle emergenze, per cui siamo stati coinvolti subito, abbiamo mosso subito tutto quello che si poteva muovere, perché il terrore che avevamo, l'incubo, era proprio quello della bomba ecologica, della perdita di carburante dalla nave. Non avevamo idea esattamente di quali fossero le condizioni dello scafo, e fino alla mattina, quando c'è stata luce, non abbiamo avuto le informazioni più adeguate. Poi qualche ora dopo mi sono visto alla prefettura di Livorno con la capitaneria di porto, con il presidente della regione toscana, e abbiamo cominciato a organizzare anche quel sistema di monitoraggio che continua a funzionare. Lei sa che da quella tragedia è diventato anche un modo di dire mondiale fare lo schettino. Ora non ne vogliamo entrare in quello che poi sarà l'iter processuale, però insomma l'Italia non ha, anche in termini di immagine, guadagnato moltissimo da questa vicenda, per usare un eufemismo, no? Allora guardi, da un lato questo purtroppo è avvenuto, voglio dire però che è anche molto sgradevole da parte soprattutto di alcuni canali di informazione questo approccio, perché quello che noi abbiamo fatto immediatamente dopo questo incidente non è stato fatto da nessun'altra parte al mondo, a cominciare dalla Spagna e dalla Francia, che hanno avuto incidenti gravi per la rottura di petroliere, per la perdita, e che invece di adoperarsi come abbiamo fatto noi per prevenire, hanno semplicemente cercato di mettere sotto la polvere il problema allontanando le navi al largo. Il caso della Erika è un classico, per cui la loro operazione poi come effetto ha avuto quello di allontanare la nave dalla vista, ma nello stesso tempo di creare un inquinamento enorme sulle coste. Quello che ha fatto l'Italia immediatamente dopo l'incidente della Concordia e la scelta che abbiamo fatto di concentrarci sulla protezione dell'ambiente per evitare danni maggiori non è stato fatto da nessuna parte. L'operazione che si sta facendo ora al Giglio, infatti, è la prima volta che si fa al mondo. E per quel che riguarda il cosiddetto inchino, anche se il comandante Schettino ha detto non era un inchino ma una manovra di avvicinamento alla nave, c'è una procedura per cui adesso è impossibile più compiere azioni che siano quelle di uscire, insomma, dalla rotta, avvicinarsi alle navi, alle isole, avvicinarsi agli scogli, avvicinarsi alle località, per poi rischiare questo tipo di tragedie? Certo, noi abbiamo adottato un provvedimento che riguarda prevalentemente le aree naturali, le aree di pregio, che però sono in Italia molte, per cui sostanzialmente è un provvedimento pressoché generalizzato che impedisce che questo tipo di procedura, che questo tipo di abitudine venga seguita. Abbiamo ancora aperta la questione di Venezia, perché sostanzialmente stiamo aspettando che tra l'autorità portuale, la capitaneria di porto, il magistrato alle acque, che è l'organo periferico del Ministero delle Infrastrutture, e il comune di Venezia si mettano d'accordo sulla soluzione migliore per evitare il traffico. Secondo lei andrebbe evitato per Venezia? Assolutamente sì. Noi abbiamo, nel decreto che ho firmato insieme con Corrado Passera, noi abbiamo previsto che questo traffico venga allontanato dal bacino di San Marco. Le soluzioni alternative sono state indicate, ma Venezia è una città un po' complicata, come si sa. Anche particolare, sì. Anche particolare e anche abbastanza difficile in genere trovare rapidamente le soluzioni a tutti i problemi della città. Rimane quella. Mi faccia fare, perché ho 30 secondi, prego. Intanto vi ringrazio, mi faccio fare una domanda che esula dal discorso del Giglio, ma siccome siamo in tempi di campagna elettorale, Ministro, tutti chiedono e si chiedono cosa fanno i ministri. Lei ha chiuso l'esperienza governativa, nel senso che fa? Va in politica? Si candida? No, io non si candida. Da molto tempo che non mi candido, devo dire che da qui alla fine di questo governo, cioè all'entrata del prossimo governo, abbiamo ancora un bel po' di cose delicate da seguire, dall'Ilva di Taranto ai problemi dei rifiuti di Roma, a quelli della Campania, che non, che sono tutti sostanzialmente urgenti e, credo e poi che basta. Sarebbe diciamo. Stato un po' difficile fare campagna elettorale. Va bene. Intanto la ringrazio, buona giornata al Ministro dell'Ambiente Corrado Clini, così come Mario Pellegrini, Vice Sindaco del Giglio. Potete seguirci su Facebook, su Twitter, Alino Milan sono io, 24 Mattino la trasmissione, e potete seguirci soprattutto in onda, da domani siamo qua alle 6.30.